Passo la parola a Massimiliano Aragona. Luciana, ti chiedo di essere l'ultima perché ci racconterai, ti solleciterò su una cosa, ti chiederò sintesi, ma insomma su una cosa che ti è molto cara. Massimiliano, dicevo prima che ci accomuna una riflessione ormai di parecchi anni sul ruolo del mediatore culturale nell'EIPIP. Ah, ecco, a te la parola. Sì, grazie Raffaele per l'invito. Volevo ringraziare anche personalmente Chiara Peri perché insomma la sua pazienza soprattutto con me è stata fondamentale. Proverbiale. E mi scuso per prima, ma è andata via la luce proprio nel momento dopo, quindi tempo che mi sono ricordato verso il turno. E dunque, come voi sapete, insomma, io mi occupo di coordinare l'unità operativa di salute mentale qui all'INMP. L'INMP si occupa non solo di rifugiati e richiedenti asilo, anche se ovviamente è una popolazione che attenzioniamo in modo particolare, che anche numericamente è piuttosto corposa, ma di migrazione in generale e di questioni legate alla salute e alla povertà in generale, e quindi anche delle situazioni di povertà nella popolazione italiana. Però, come sapete, povertà e migrazione purtroppo sono due ambiti che tendono ampiamente a sovrapporsi. E molte delle cose che dirò, avrei dovuto dire, sono già state dette, quindi io vado molto veloce anche per non rubare l'attenzione che a quest'ora comincia, immagino, anche un po' a calare. E una cosa era l'importanza del lavoro in rete, è già stato detto del lavoro sul piano sociale, legale, che sono fondamentali per poter in qualche modo accompagnare il percorso di cura, altrimenti il lavoro esclusivamente psicologico e psichiatrico da solo può non essere sufficiente, in molti casi non lo è. Ricorderei anche, noi qui ad esempio abbiamo questa possibilità, che invece a volte nella psichiatria territoriale un po' è slegata, quella di avere la parte anche della medicina somatica molto vicina e integrata, così come la possibilità dell'antropologia. E ovviamente ne abbiamo parlato poco oggi, tu ricordavi una nostra vecchia riflessione, quella dell'importanza della mediazione culturale. E le attività che si fanno sono tante, abbiamo anche degli focus specifici su popolazioni come gli homeless, le donne vittime di violenza anche domestica e le vittime di tratta, che ricordava prima Aldo essere una delle popolazioni anche più complesse poi da prendere in cura. E vado velocemente a un paio di cose che mi premeva dire oggi. Le due domande fondamentali sono di cosa soffrono i migranti, in parte l'abbiamo visto, e l'altra domanda fondamentale è siamo attrezzati? Di cosa soffrono i migranti abbiamo parlato ampiamente, soprattutto per quel che riguarda la parte dei migranti forzati, che le reazioni di tipo post-traumatico fanno un po' la parte del leone. Abbiamo visto non esserci una dato di prevalenza unico, ma variare ampiamente a seconda degli studi, però insomma una buona fetta delle persone con migrazione forzata che si rivolgono ai nostri ambulatori hanno una problematica di tipo post-traumatico. Qui però si crea un problema molto importante che è già stato in parte accennato, che è quello delle difficoltà vitali post-migratorie. Nel senso che si tende a dire che la persona che ha subito dei traumi importanti sta soffrendo a causa di quei traumi, e questo è sostanzialmente vero. Ma quello che noi sappiamo da vari studi, che anche noi in Italia abbiamo un po' ripreso sulla scia degli australiani, che hanno un po' aperto la strada su questo, quello che noi sappiamo è che la qualità dell'accoglienza e quindi la quantità di difficoltà vitali post-migratorie nella fase di ripartenza nel paese ospite sono in qualche modo una delle variabili più importanti sulla prognosi di queste persone. A volte ci sono persone che non avrebbero sviluppato una reazione post-traumatica se non fosse che poi arrivati in Europa hanno avuto una serie di difficoltà enormi, se non delle vere e proprie, come spesso succede, ritraumatizzazioni secondarie. Quindi questo è un dato secondo me molto importante. E poi c'è tutto il discorso della patologia legata alla marginalizzazione sociale. Negli ultimi anni la situazione è peggiorata notevolmente rispetto a qualche anno fa, e già qualche anno fa non eravamo messi particolarmente bene, ma oggi la quantità di persone che stanno in strada, che escono dai centri di accoglienza, che vengono escluse dal sistema, eccetera, è veramente di difficile gestione. E chiaramente quando hai una marginalizzazione sociale così spinta che poi finisci nell'alcol, nelle sostanze, nella patologia mentale più o meno grave, insomma in qualche modo c'è una componente, come diceva il collega che mi ha appena preceduto, legata alle componenti sociali, ambientali, eccetera, che secondo me nella psicopatologia delle migrazioni è la parte assolutamente più rilevante. Poi c'è un terzo punto che volevo sottolineare, che era il problema delle psicosi. Noi sappiamo che negli ultimi anni ci sono dati di letteratura sui ricoveri in Italia, ad esempio, su tutto il territorio nazionale, che ci fanno vedere che negli ultimi anni, sostanzialmente da dopo la guerra in Libia, quindi quando è arrivata l'ondata dell'emergenza Libia, eccetera, eccetera, il numero dei ricoveri per psicosi nei servizi di salute mentale, negli SPDC fondamentalmente, è molto aumentata, ma soprattutto per i giovani provenienti dai paesi da dove di solito arrivano i profughi, e a fronte di una popolazione migrante generale che invece ha tassi di psicosi e tassi di ricovero per psicosi sostanzialmente molto più bassi di quelli degli italiani. Questo è un dato che ci fa interrogare su due punti. Uno è il rischio di una misdiagnosi, di una non diagnosi corretta. Quante persone con reazioni post-traumatiche che sentono le voci perché hanno avuto dei traumi, eccetera, eccetera, o che hanno delle agitazioni psicomotorie, rischiano di venire prese per pazienti con una psicosi. Ma ci dice anche del fatto che, peggiorando la situazione dell'accoglienza, peggiorando la situazione dell'inserimento, della progettualità, eccetera, eccetera, anche le vere psicosi sono in qualche modo in aumento. Almeno i dati ci indicano questo. E questo mi porta velocemente ad andare alla seconda domanda, in modo da non rubare tempo alla collega che deve parlare, cioè siamo attrezzati? E come al solito sì e no, nel senso sì, le linee guida ad esempio per le vittime di violenza già evocate più volte sono secondo me ancora piuttosto valide. E il problema delle linee guida, l'ha ricordato Giancarlo Santone, è che solo poche regioni le hanno formalmente accolte, e anche nelle regioni che le hanno formalmente accolte non tutti i servizi di salute mentale si sono attrezzati per dare risposte. Quindi un primo problema fondamentale, e che voi nelle vostre linee guida vedevo avete molto bene messo in luce, è il problema della barriera all'accesso e alla fruibilità dei servizi di salute mentale pubblici per queste persone. E credo che questo sia un punto fondamentale. E quando sulla spinta di Basaglia i servizi si sono declinati come unità territoriali, e questo aveva senso perché la psicopatologia andava ricondotta all'alveo sociale della quale in qualche modo nasceva e si poteva trattare. Ebbene, quando questo diventa la necessità di avere la residenza per poter accedere al servizio, questo ovviamente significa una barriera insormontabile all'accesso proprio in quelle popolazioni più svantaggiate e più bisognose che così non vengono accolte. Sappiamo, perché esperienza comune di ognuno di noi, come spesso questo è il tipo di barriera che più frequentemente le persone migranti, e non solo migranti, perché ci sono anche italiani che perdono la residenza per vari motivi, si trovano ad affrontare nel momento in cui si accostano ad alcuni, non a tutti, i centri di salute mentale. Perché poi c'è quest'altra caratteristica tipicamente italiana, che la risposta poi può anche variare a secondo di qual è la porta alla quale si bussa. Infine c'è l'ultimo punto che vorrei trattare brevemente, che è quello che io chiamo della prevenzione. Nel senso che tutti noi, soprattutto chi lavora da più tempo, ha più esperienza, ha dei servizi più attrezzati, eccetera, abbiamo la sensazione di, con tutti i nostri limiti, di riuscire a fare ogni tanto un buon lavoro aiutando questa o quella persona. Però se lo vediamo in una prospettiva più ampia, io a volte ho l'impressione che sto tentando di svuotare il mare col secchiello, nel senso che quella parte di acqua che prendo nel secchiello qualcosa la faccio, ma c'è tutto il resto del mare che in qualche modo sfugge. E questo secondo me è molto importante da considerare, perché se no il rischio è di pensare che è soltanto un problema di mettere più psichiatri, più psicologi, più servizi, attivarli, eccetera, eccetera, quando non ci rendiamo conto che uno dei problemi di cui soffrono primariamente oggi i nostri migranti ha a che fare con le grosse insufficienze del modello dell'accoglienza, che è un modello che è sostanzialmente passivizzante, che non consente un empowerment rapido delle persone, e che in qualche modo ferma in progetti di vita sospesi le persone per 10 anni. Se una persona sta in Europa da 10 anni e non ha ancora un permesso di soggiorno, non ha un lavoro... Mi sentite? Sì, bene. Scusate, è andato lo screen. Allora, dicevo, se una persona si trova dopo 10 anni ad aver vagato in 3, 4, 5 paesi europei, essere stato dinegato, essere stato rimandato da una parte all'altra, dublinato, contro dublinato, ricorso, contro ricorso, e questo progetto di vita continua a essere impantanato, prima l'onorevole Zampa diceva proviamo a metterci nei panni, facciamo uno sforzo di empatia, come ci sentiremmo in quella situazione? Ecco che parlare di patologia mentale laddove è una reazione psicologica che secondo me è assolutamente comprensibile rispetto a un progetto di vita che è totalmente fallito, questo secondo me è un problema importante. E come si fa a ovviare questo? Ovviamente non abbiamo soluzioni immediate e facili, però aumentare il più possibile i canali legali. Abbiamo già dei progetti in questo senso che stanno funzionando, ma rispetto alla quantità di quello che ci vorrebbe siamo sicuramente in un livello molto ancora insufficiente. E come secondo punto, apertura all'immigrazione economica. E da qualche parte in Europa è stato deciso anni fa che i migranti che potevano arrivare erano solo richiedenti asilo e rifugiati, creando un sovraccarico del sistema di accoglienza per i rifugiati e i richiedenti asilo, fatto anche di persone che magari sarebbero venute per altri motivi ma che non possono rimanere in Italia se non dichiarano di essere dei rifugiati e dei richiedenti asilo. E poi terzo punto, perché non proviamo delle sperimentazioni con il rilascio di permesso immediato a chi arriva e vedere che tipo di percorso fanno le persone che da subito hanno un permesso e vengono messe in un sistema che li spinge ad attivarsi e a rimettere e prendere in mano la loro vita, piuttosto che tenerli anni ad aspettare che la loro pratica si definisca, perché credo che quello sia l'elemento patogeno più importante di tutti. Non so se questa è utopia, però non mi sembrano cose che sono al di fuori della portata di un paese evoluto come l'Italia e di un continente evoluto come l'Europa. Grazie. Grazie Massimiliano. Io credo che una riflessione su come funziona il sistema di accoglienza, indipendentemente dagli aspetti più alti della legislazione relativa agli ingressi, comunque già quello sarebbe, credo, doveroso a questo punto, perché anche noi che abbiamo riscontrato che c'è proprio forse la necessità di capire quanto il sistema di accoglienza nel suo complesso promuove il benessere dei migranti. Questo mi pare che sia il tema. Anche prima Assunta ricordava di quanto ha speso in termini di lavoro il FAMI per costruire e promuovere modelli di autonomia dei migranti, perché poi si ha chiara la percezione, credo, di quello che tu dicevi, che c'è questa difficoltà di far diventare il passaggio nei centri di accoglienza un passaggio che promuova salute, emancipazione, autonomia, eccetera.